Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:08 minuti, oggi è mercoledì, nuovo appuntamento con Focus Economia, subito uno sguardo all'andamento dei mercati, oggi con il segno più, anche se dobbiamo dire che gli scambi sono abbastanza ridotti, si avvicina all'ultimo dell'anno e quindi questo è quanto avviene abitualmente. Parigi guadagna lo 0,95%, Francoforte lo 0,35%, Londra è negativa meno 0,25% e poi a Milano il FTSE All Share è in progresso dello 0,35% e il FTSE MIB dello 0,34%. Per quel che riguarda i listini americani, il Dow Jones guadagna uno 0,22%, il Nasdaq leggermente più indietro, più 0,12%. Sul listino principale, per tornare a Milano, è il miglior titolo è Fondiaria Assai, più 2,78%, bene anche Buzzi Unicem, più 2,38%, ricordiamo che anche ieri il titolo era andato piuttosto bene. In fondo al listino invece il titolo peggiore è Fiat, che cede l'1,25% in questo istante, anche se nel corso della seduta in realtà il titolo era andato piuttosto bene. Terna cede lo 0,7%, Exor lo 0,53%, Diasorin lo 0,40%, Parmalat lo 0,36%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,31,33 sul dollaro proprio in questo istante. Di che cosa parliamo oggi? Ovviamente in primo piano la firma del contratto per Pomigliano e quindi parleremo ancora di Fiat, vi faremo sentire le voci dei rappresentanti sindacali e poi vi spiegheremo qualcosa di più attraverso il collegamento con il nostro collega a Roma Vincenzo Miglietta e poi parleremo di titoli di Stato, di che cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo anno, di come si sta chiudendo questo, un anno particolarmente in tensione per quanto riguarda i titoli di Stato in Europa. Poi parleremo di consumi, avete sentito anche ieri, ve lo accennavamo, si prepara una stangata per le famiglie italiane, anche in questo caso cercheremo di capirne qualcosa di più attraverso il presidente di Federconsumatori. 349-238-6666 per i vostri sms, adesso tutte le nostre notizie in breve. Partiamo come sempre dalle materie prime, oro poco mosso sui mercati asiatici, il metallo prezioso viene scambiato a 1.406,63 dollari l'oncia. Il petrolio apre in calo a New York, meno 0,4% a 91,17 dollari. Nuovo record storico dei consumi di gas su base giornaliera, il colpevole è quest'ondata di freddo che ha investito l'Italia fra mercoledì 15 e venerdì 17 dicembre, quando in tutta la penisola si sono registrate temperature decisamente sotto la media stagionale. La sequenza è stata abbastanza impressionante, 452 milioni di metri cubi di gas consumati mercoledì, 450 giovedì, 458 venerdì, come dire il gas consumato nella rete di Bologna e provincia tra i mesi di ottobre e gennaio, bruciato in un solo giorno. Economia internazionale, la Cina, eccola qua, una nuova stretta sui tassi, la Banca Popolare Cinese ha aumentato il tasso di risconto di 45 punti base portandolo al 2,25%, la Banca Popolare della Cina ha anche aumentato di 52 punti base il tasso di rifinanziamento portandolo al 3,85%, con questa mossa diventa più difficile e costoso per le banche cinesi prendere denaro in prestito dalla banca centrale, questa ovviamente è un'ulteriore stretta alle condizioni del credito in Cina. Sappiamo che l'inflazione è forse la prima priorità del governo. E infatti, giro di vite di Pechino sui rialzi dei prezzi immobiliari che nel 2011 saranno tagliati dalle autorità se eccessivi. Il governo sarebbe pronto a mettere in pratica risolutamente il piano. La Cina, che la scorsa settimana, lo ricordiamo, ha alzato i tassi di interesse per la seconda volta in pochi mesi, è alle prese con un forte rialzo dei prezzi, in particolare dei prezzi immobiliari, e questo fa temere una bolla speculativa. Torniamo in Europa. Due fondi speculativi del gruppo bancario francese BNP Paribas, Opportunity e Serenity, sembrano appesantiti da asset tossici. Questo è quanto rivela un settimanale satirico, spiegando che gli investitori che avevano affidato i propri euro non vi hanno più accesso e sono pregati di pazientare. I due fondi, che insieme gestiscono circa 376 milioni di dollari, sono temporaneamente sospesi da novembre, secondo un documento di BNP Alternative Funds citato dal giornale, perché alcuni dei loro asset sono divenuti difficili da vendere. In Germania l'inflazione tedesca a dicembre è balzata all'1% su mese contro lo 0,9% previsto dagli economisti e dopo lo 0,1% di novembre. Su anno il tasso di inflazione è all'1,7%, la previsione era all'1,5%. L'inflazione armonizzata è all'1,2% su mese e all'1,9% su anno. La Spagna, e poi ne parleremo anche nel corso della trasmissione, ha programmato emissioni nette di titoli di Stato per 47,2 miliardi di euro nel 2011, un calo deciso dai 62,1 miliardi dell'anno che si sta chiudendo. Questo è quanto ha comunicato il Ministero dell'Economia in una nota, precisando che collocherà soltanto titoli a medio e lungo termine, rinunciando a emissioni a breve termine. E sempre per quanto riguarda i titoli di Stato, il Portogallo prevede di vendere tra i 18 e i 20 miliardi di euro di titoli nel corso del 2011. Questo è quanto ha comunicato l'Agenzia del Debito portoghese, precisando che il paese dovrebbe aver bisogno di prestiti per circa 20 miliardi di euro. L'Italia, il Tesoro, ha collocato 8,5 miliardi di BOT a 6 mesi e 3,5 miliardi di CTZ al 2012, ma ha dovuto pagare interessi, tassi più alti, mentre la domanda rallenta. Il rendimento medio dei BOT semestrali è salito all'1,69% dall'1,48% dell'ultima asta dello scorso 25 novembre e il rendimento dei CTZ è salito al 2,93% dal 2,3%. Per i bot la domanda ha superato l'offerta di 1,55 volte, nell'asta precedente, quella di fine novembre, era 1,63. Per i CTZ la domanda ha superato l'offerta di 1,18 volte contro l'1,83 della precedente asta. Conti pubblici, occorre rigore nei conti. Questo è quanto scrive il ministro dell'Economia Giulio Tremonti in una circolare inviata a tutti i ministeri. Anche in relazione al generale contesto europeo, rileva Tremonti, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica. E ancora, ridurre gli stanziamenti per le spese non obbligatorie e inderogabili, questo è l'invito rivolto da Tremonti sempre ai suoi colleghi ministri. Nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, le amministrazioni procedano ad una impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad una oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie e inderogabili. E ancora sui conti pubblici, Tremonti invoca la collaborazione di tutti per appunto far quadrare i conti, lo scrive ancora il ministro, che ricorda dunque tutte le nuove norme alle quali le amministrazioni debbono attenersi per predisporre i bilanci del 2011, dal taglio della carta al risparmio energetico, dal contenimento delle auto blu alla diminuzione dei convegni. Dal prossimo anno, per fare acquisti oltre i 3.000 euro, bisognerà fornire anche il proprio codice fiscale. Si tratta di una norma contenuta nella manovra economica di luglio che renderà possibile rintracciare quei cittadini che spendono più del reddito dichiarato. Lo sottolinea il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che chi non paga le tasse dovrà fare bene i conti, perché la vecchia logica basata sulla stima dei rischi ridotti non vale più. Quello del codice fiscale, spiega, è un sacrificio che chiediamo a tutti i cittadini onesti, lo sappiamo, ma vorremmo fosse compreso perché consentirà di colpire meglio gli evasori. La crisi. cresce nel 2009 l'insieme dell'indebitamento, la difficoltà delle famiglie di far fronte agli imprevisti. Questo è quanto rileva l'Istat nel rapporto distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia relativo agli anni 2008-2009, precisando che le famiglie che non potrebbero far fronte a spese impreviste di 750 euro aumentano dal 32 al 33,3%. Rispetto al 2008 cresce inoltre il numero di famiglie che sono state in arretrato, che sono in arretrato con debiti diversi dal mutuo, e quelle che si sono indebitate. Sui comportamenti della CGIL e della FIOM è intervenuto il ministro Brunetta. La CGIL in che pianeta vive? Forse su Marte? Siamo in una crisi economica spaventosa e loro mi fanno i conti della perdita potenziale degli stipendi degli statali. Ma di che stiamo parlando? Così Renato Brunetta ha attaccato la CGIL, secondo la quale in 3 anni con il blocco dei rinnovi contrattuali ci sarà una perdita di 1.600 euro a testa. L'ISVAP ha presentato con una lettera a Governo e Parlamento un pacchetto di interventi normativi nel settore dell'RC auto volti a ridurre le tariffe. L'autorità, si legge in una nota, ritiene che il complesso di questi interventi possa contribuire a contenere il costo dell'RC auto nella misura prudenziale del 15-18% e a realizzare nel contempo l'equilibrio tecnico del ramo nel medio periodo. Questa era una buona notizia, o almeno potrebbe essere una buona notizia. Dal 1 gennaio però scattano con ogni probabilità nuovi aumenti dei pedaggi autostradali, in media un più 6%, con un picco del 20% sulla Milano-Torino, gestita dal gruppo Gavio. E noi arriviamo, quindi chiudiamo le nostre notizie in breve, arriviamo a quello che è il primo importante argomento che trattiamo oggi, ovvero la firma del nuovo contratto per Pomigliano. Della seconda giornata dell'incontro tra sindacati e Fiat sul nuovo contratto per lo stabilimento di Pomigliano, la firma è arrivata poco dopo le 16:30. Questo contratto regolerà il rapporto di lavoro di circa 4.600 dipendenti dello stabilimento napoletano che sono attualmente in cassa integrazione. Noi siamo collegati col collega Vincenzo Miglietta, che saluto. Buon pomeriggio Vincenzo, ha seguito per noi la trattativa. Sì, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Allora Vincenzo, tutto sommato la firma è arrivata dopo due giorni che non sono stati molto tesi, anche perché comunque c'era già l'accordo delle sigle CISL e UIL, in particolare ovviamente di quelli di categoria. Come sappiamo la FIOM si era già tirata indietro. Sì, è così, 2 giorni di lavoro molto tranquillo qui a Roma, nella sede della Fiat. Si è arrivati quindi alla definizione del contratto che regolerà il rapporto tra lavoratori e la NewCo relativa allo stabilimento Fiat di Pomigliano. Sostanzialmente si prevede un incremento salariale medio di 30 euro lordi per 12 mensilità e un nuovo inquadramento professionale con la definizione di 5 gruppi professionali e di fasce intermedie, che consentirà a detta dei sindacati una maggiore facilità di promozione. Sempre a detta dei sindacati di categoria, questi 30 euro lordi potrebbero salire in alcuni casi anche a 100 euro lordi mensili, perché con l'aumento di 30 euro vanno ad aumentare tutti dei paletti, delle finestre relative a ciascun lavoratore, e quindi per i più ottimisti dei sindacati vi potrebbero essere anche aumenti di 100 euro lordi mensili. Questo per quanto riguarda la parte retributiva, che ricordiamo viene aumentata grazie ad una maggiore produttività che i sindacati promettono alla Fiat, una maggiore produttività che deriverà da una riduzione dei minuti, delle pause e una maggiore produttività relativa ai turni della notte. Su quest'ultimo punto la trattativa a giugno, quando si raggiunse l'accordo, si discusse molto, fu il punto più osteggiato da parte della FIOM, Draghi, sappiamo, non sottoscrisse l'accordo, e oggi sappiamo come ha risposto sia a Pomigliano che a Mirafiori. Vincenzo, ne parleremo tra pochissimo. Intanto ricordiamo che il Lingotto vuole trasferire a Pomigliano la produzione della Panda, che è ora in Polonia, investendo 700 milioni di euro e portando la produzione dello stabilimento dalle attuali 36.000 a 280.000 vetture l'anno. Sentiamo che cosa ha detto proprio al tuo microfono il leader, il segretario nazionale della FIM CISL, Bruno Vitali. Stiamo andando avanti, contiamo di finire nel pomeriggio di oggi, in serata. La cosa importante è che da gennaio i primi lavoratori di Pomigliano rientreranno dalla cassa integrazione e saranno assunti. Qui stiamo scrivendo il nuovo contratto, il rapporto di lavoro. Essendo che la nuova società di Pomigliano non aderisce a Confindustria, abbiamo necessità di non lasciare mano libera all'azienda e quindi di mettere le condizioni del contratto. È un contratto questo transitorio, provvisorio, durerà 2 anni, nel frattempo dovremo fare delle norme specifiche per il settore auto. La cosa positiva è sulla parte salariale, ci sarà un incremento salariale, la paga base sarà più alta e ci sarà un nuovo inquadramento professionale che da anni i metalmeccanici chiedono una riforma dell'inquadramento. Qui sembra, dobbiamo ancora fare l'accordo, sembra che riusciamo a portarla a casa. Quindi la cosa per ora è positiva. Speriamo che non ci siano intoppi di chiudere velocemente. Ovviamente il segretario nazionale Vitali della FIM CISL parlava poco prima della chiusura dell'accordo. Proprio a proposito degli aumenti salariali, sentiamo quanto ha affermato il segretario generale della UILM Campania, Giovanni Sgambati, a margine sempre di questo incontro. Meglio che vediamo le tabelle, mediamente varrà all'incirca una tranche di aumento contrattuale, quindi all'incirca 30 euro in più. Ma i minimi sono costruiti anche con alcuni istituti che già erano in essere, quindi gli effetti dei minimi tabellari sono molto significativi. Io penso che riguarderanno anche 100 euro di differenza tra un lavoratore del Giambattista Vico e un altro lavoratore metalmeccanico. Il vero aumento vale circa 30 euro, ma gli effetti sui minimi sono significativi, perché da là si calcolano gli scatti, si calcolano le indennità di turno, le maggiori che sono significative per noi sono per quelli di Fiat il 60% per la notte, e sono importanti per gli scatti di anzianità. E quindi Vincenzo Sgambati precisava appunto quanto ci avevi raccontato già tu sugli aumenti salariali, e tu poc'anzi dicevi, sappiamo poi come è andata a finire, qual è stata la risposta della FIOM per non aver sottoscritto questi contratti in seguito alla scelta di non averli sottoscritti ancor prima che si apprendesse della firma del contratto di Pomigliano. Landini aveva già risposto con la decisione di uno sciopero generale. Sì, è così, uno sciopero di categoria per l'esattezza, confermato il 28 gennaio, 8 ore da parte della FIOM, ma la FIOM pressa da vicino la CGIL affinché la CGIL si impegni per uno sciopero generale. Nello specifico comunque Landini accusa la Fiat di atti antisindacali, antidemocratici e autoritari, e invita a reagire se non si vuole, dice, un imbarbarimento sociale. Ricordiamo che il sindacato dei metalmeccanici della CGIL proprio ha bocciato queste intese, prima Pomigliano e poi Mirafiori, proprio perché andrebbero contro gli interessi degli operai, si romperebbe di fatto un fronte nazionale con conseguenze al momento imprevedibili, secondo la FIOM. Tra l'altro, diciamo, proprio riportiamo alcune parole di Landini, che ha parlato addirittura di che il Lingotto vuole operai schiavi senza diritti e sotto ricatto. Lo sciopero sarebbe stato indetto, ovviamente lo sciopero di categoria dei metalmeccanici, contro l'attacco alla democrazia che ovviamente sarebbe portato avanti dalla Fiat, secondo le parole di Landini. Ma sentiamo proprio quanto ha detto Maurizio Landini, leader della FIOM. Dobbiamo cercare di rendere evidente la gravità di quello che è avvenuto alla Fiat e il fatto che si sta teorizzando la cancellazione del contratto nazionale, dei diritti di chi lavora e della libertà sindacale delle singole persone. E che la Fiat sta teorizzando che queste cose vanno messe in discussione per poter investire e continuare a lavorare in Italia. Quindi la gente, le forze politiche dovrebbero preoccuparsi del modello sociale che può venire fuori da un modello di competitività di questo genere. Per questa ragione noi abbiamo proclamato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici il 28 di gennaio. Vincenzo, questo Maurizio Landini era proprio ai tuoi microfoni. Ricordiamo che la FIOM è il primo sindacato di Mirafiori con una quota del 26% circa dei voti, perché però, non avendo sottoscritto il nuovo accordo, non avrà rappresentanza all'interno di Mirafiori. Ci vuoi raccontare qualche altro passaggio? Perché Landini ha tenuto anche una conferenza stampa poi a seguito di questa decisione. Sì, assolutamente, una conferenza stampa all'interno dei lavori del Comitato Centrale della FIOM, quindi in una pausa dei lavori. La decisione di andare allo sciopero del 28 gennaio è stata messa ai voti, Landini ha avuto una larghissima maggioranza. Ripeto, da parte della FIOM si denuncia quindi questa antidemocraticità, a loro dire, del contratto proposto dalla Fiat ai sindacati. Adesso la partita da parte della FIOM si gioca proprio nel fronte interno, cioè nei confronti della CGIL, nel convincere il nuovo leader della CGIL, Lacamusso, a elevare il livello dello scontro, chiamiamolo così, coinvolgendo il primo sindacato italiano in uno sciopero generale che denunci quindi lo stato delle cose. Questo è un po' il clima che si è respirato in corso d'Italia, dove tuttora, ricordo, è riunito il Comitato Centrale. Grazie a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Roma per averci illustrato quanto è accaduto oggi e quindi averci testimoniato la firma di questo contratto per gli operai di Pomigliano. A lui buon lavoro e buona serata. Grazie. Landini, nel corso della conferenza stampa, ha anche replicato a alcuni esponenti del Partito Democratico con un chiaro riferimento a Fassino e Chiamparino, i quali avevano detto: se fossi un operaio, in particolare Fassino, se fossi un operaio di Mirafiori voterei sì al referendum su questo accordo, su questo contratto. Landini ha replicato: andate prima nelle catene di montaggio e vediamo se poi ragionate ancora nello stesso modo. Ma sempre nel corso della conferenza stampa Maurizio Landini ha poi specificato qual è proprio la posizione della FIOM in merito al contratto. Noi vogliamo un contratto nazionale di lavoro, vogliamo un secondo livello di contrattazione che qui viene cancellato e saremmo disponibili anche a fare delle innovazioni sul secondo livello di contrattazione. Come noto, noi pensiamo che di fronte a quello che sta succedendo, e la Fiat dimostra che il contratto nazionale non c'è più, secondo noi bisognerebbe addirittura arrivare al contratto dell'industria, a unificare tutti i contratti, e siamo pronti a sperimentare un secondo livello di contrattazione che può essere aziendale, di sito, di filiera. Siamo pronti a discutere, non abbiamo pregiudiziali in testa, però la contrattazione deve esserci. E la contrattazione o è una mediazione tra interessi diversi o non è. E quello che sta facendo la Fiat è la cancellazione, non semplicemente della FIOM, la cancellazione del lavoro come un soggetto che ha almeno la stessa dignità dell'impresa. La Fiat sta dicendo che c'è solo l'impresa. Come ci raccontava anche il collega Vincenzo Miglietta, la posizione della FIOM ha creato un dibattito non solo all'interno di tutto il sindacato, ma anche all'interno della stessa CGIL. Ne parleremo, continueremo a parlarne tra pochissimo. Adesso ci fermiamo, il meteo, ma restate con noi. Sono le 17:35 minuti, abbiamo parlato della firma per il contratto di Pomigliano, 4.600 lavoratori dello stabilimento che tornano a lavorare con altre condizioni, firma da parte della CISL e della UIL. Non ha firmato la CGIL, in particolare non ha firmato la FIOM, stessa posizione anche su Mirafiori, una posizione che ha aperto un dibattito molto duro all'interno della CGIL. La neosegretaria Susanna Camusso non ha risparmiato qualche critica alla FIOM, ma ha aperto anche una discussione All'interno dei sindacati sulla rappresentanza, il leader della CISL Bonanni ha detto che bisogna ripartire dal testo unitario firmato da tutti nel 2008, quello che parlava della riforma del modello contrattuale. La stessa Susanna Camusso ha rivolto un invito alla Confindustria per un tavolo sulla rappresentanza e noi abbiamo chiesto al segretario della UIL, Luigi Angeletti, se è possibile a questo punto un patto tra imprenditori e sindacati. Sentiamo. Sicuramente è una cosa che si può fare, può essere utile, anche se ovviamente non è il principale problema che abbiamo, soprattutto che non ha né il paese né i lavoratori, perché il principale problema dei lavoratori del paese è che noi facessimo insieme magari alle imprese e al governo qualcosa per far sì che la nostra economia crescesse un po' più a ritmi un po' più maggiori di quelli attuali e soprattutto si creassero buoni posti di lavoro. Poi le regole aiutano il sistema delle relazioni industriali, ma il sistema delle relazioni industriali non è fine a se stesso, cioè non è condizionato dai rapporti tra i sindacalisti e le associazioni dell'impresa, è uno strumento utile per far funzionare meglio l'economia. È uno strumento utile, lei dice, però potrebbe essere ancora più utile se poi questo evitasse che alcune imprese, come ad esempio la Fiat, uscissero dal contratto nazionale. Certamente, è evidente che quando accadono queste cose dimostrano che le regole attuali non sono esattamente agibili per tutti e per tutte le realtà di impresa. Anche perché adesso l'ha fatto la Fiat, ma questo potrebbe anche essere un esempio seguito in futuro da altre aziende. Questo potrebbe portare problemi, forse ai lavoratori ma anche a qualche imprenditore. Tutte queste cose sono state fatte volontariamente, sia da parte del versante delle imprese sia dal versante dei lavoratori. Quindi, premesso che non credo a nessun effetto emulazione, perché ogni mondo ha i suoi problemi e li risolve o perlomeno prova a risolverli nel modo migliore possibile. Però anche quando imprenditori e lavoratori si mettono d'accordo per cambiare qualche regola è perché valutano che cambiare le regole è nel loro interesse. Non è che lo fanno per fare dispetto a qualcuno. Senta, segretario, per tornare a Mirafiori, questi turni, ipotetici turni da 10 ore più un'eventuale ora di straordinario, per chi sta alla linea potrebbe essere abbastanza dura. Guardi che l'alternativa, erano due alternative, una fare lavorare 8 ore e fare riposi a scorrimento e questa è avere 3 giorni di riposo a settimana e la maggioranza dei lavoratori ha optato per questa scelta, non gli è stato... Come dire, è stato valutato ed è stato discusso quale delle due opzioni fosse la migliore, ma la maggioranza ha preferito avere 3 giorni a settimana e lavorare 10 ore, fare turni di 10 ore. Dal punto di vista dell'utilizzo degli impianti è del tutto indifferente, sono sempre 40 ore di lavoro che uno le distribuisce su 4 giorni o le distribuisce su 5, per la produzione non cambia nulla, cambia per le persone, ma se le persone preferiscono concentrarle su 4 giorni di lavoro e avere 3 giorni liberi. Io credo che Marchionne abbia banalmente e semplicemente fatto quello che deve fare un amministratore delegato di un'impresa, cioè cercare di negoziare le loro migliori condizioni. E Farina e gli altri segretari dei metalmeccanici hanno fatto esattamente quello che devono fare, cioè negoziare al meglio le condizioni, al meglio per i lavoratori. E alla fine bisogna trovare un compromesso tra queste due legittimi, come dire, aspettative, no? L'ultima domanda sul futuro, diciamo così. Dunque, Marchionne ha detto Fabbrica Italia vale 20 miliardi, però fino a questo punto si parla solo del miliardo di Mirafiori e tra l'altro dal 14 febbraio parte la cassa integrazione straordinaria. Allora, come dobbiamo conciliare queste cose e come il sindacato intende anche fare pressione? Perché, voglio dire, è un progetto che dovrebbe valere 20 miliardi a fronte poi di, vediamo, uno stabilimento aprirsi in Brasile. La cassa integrazione è pagata dalle imprese e dai lavoratori. La cassa integrazione non viene pagata dalle tasse dei cittadini. Le imprese ogni mese mettono i soldi in un fondo dell'INPS che servirà a pagare la cassa integrazione quando serve. Seconda questione, il patto che noi abbiamo fatto con Marchionne non è sui miliardi di cui noi poco ci intendiamo e devo anche aggiungere poco ci interessa. Il patto è che lui produca in Italia 1.400.000 macchine, Per questo per noi significa la Fabbrica Italia. Produrre, siccome le auto non si producono da sole, questo per noi significa garantire non solo gli attuali posti di lavoro, ma anche incrementare i posti di lavoro nell'industria automobilistica. Che poi questo comporti investimenti di 20, 25, 18 è francamente una cosa che di scarso senso sindacale. Quello che invece ha molta importanza dal punto di vista sindacale è sapere se in Italia torneremo a essere un paese che produce auto a un livello decente e non essere come oggi, per cui noi su ogni auto che, anzi, compriamo tre auto e una sola è prodotta in Italia, il che significa finanziare 200.000 posti di lavoro all'estero. Sono le 17.41, esauriamo qui la pagina dedicata al contratto firmato oggi per Pomigliano e a tutto ciò che è derivato anche dallo strappo della FIOM, non solo all'interno della CGIL ma all'interno di tutta la compagine sindacale, ed è arrivato il momento di andare a capire qualcosa di più della giornata di borsa di oggi. Benvenuta, buon pomeriggio, Eleonora Micheli, collega di Radiocor. Buonasera a tutti. Allora Eleonora, oggi segno più anche se scambi abbastanza ridotti. Sì, è la penultima giornata del 2010, quindi ovviamente innanzitutto c'è un clima semifestivo e in secondo luogo appunto domani sarà l'ultima giornata di attività a Piazza Affari del 2010, per cui le operazioni di compravendita sono state per lo più di piccolo cabotaggio, di aggiustamenti ultimi dei portafogli, sono soprattutto operazioni tecniche, molti movimenti tecnici e comunque scambi ridotti al lumicino, e poi si sa quando gli scambi sono abbastanza ridotti anche la volatilità è più evidente. Allora, intanto velocemente riepiloghiamo che cosa è successo proprio nei numeri. CAC 40 ha guadagnato lo 0,83%, Francoforte lo 0,34%, Londra si avvia a chiudere anche perché noi abbiamo un ritardo sui dati di Londra in una leggera flessione. Per quanto riguarda Milano, il FTSE All Share ha guadagnato lo 0,16%, il FTSE MIB lo 0,11%. Tornando a Piazza Affari, sul listino principale il titolo migliore Fondiaria Assai più 2,55%. Sì, oggi le Fondiaria Assai si sono messe in evidenza sin dalle prime battute, in verità durante la seduta hanno fatto anche meglio, d'altra parte il bilancio da inizio anno è in profondo rosso, le quotazioni di Fondiaria Assai lasciano sul parterre dall'inizio dell'anno oltre il 40% del proprio valore. Comunque a dare il là agli ordini in acquisto è stata innanzitutto la notizia che la controllata di Fondiaria Assai, la Milano Assicurazioni, ha realizzato la vendita di un prestigioso immobile a Piazza Cordusi a Milano per oltre 100 milioni di valore. E poi comunque ci sono state anche altre notizie che hanno coinvolto un po' tutta la galassia Ligresti, a partire dal fatto che quest'oggi sul Corriere della Sera si riportava l'indiscrezione che da oggi a venerdì dovrebbe essere firmato un accordo per Sinergia, che è praticamente la holding che sta a monte di tutta la catena di tutta la galassia Ligresti, cioè quindi sopra Premafin, che a sua volta controlla poi la stessa Fondiaria SAI, e dovrebbe essere appunto rinnovata una tranche del debito di questa holding, anch'essa appunto che ha una posizione finanziaria non particolarmente in equilibrio. Comunque poi ci sono anche novità sul fronte della stessa Premafin, pare che la Consob abbia avviato l'esame della bozza sul quesito presentato da Groupama per entrare appunto in Premafin e comunque essere esentata dall'obbligo di OPA. Insomma, un po' di notizie su tutta la galassia che hanno indotto gli ordini in acquisto nella penultima giornata di borsa. Eleonora, bene anche Buzzi Unicem, che era andato bene anche ieri. Sì, i titoli si erano distinti anche ieri, oggi per la verità, soprattutto nel durante della seduta, è andato bene tutto il comparto delle costruzioni europee, anche sul finale il sottoindice Stoxx 600, per rendersi conto, in Europa ha fatto un più 1%, e quindi sono andate al seguito un po' tutti i titoli del comparto. In Italia gli acquisti si sono fatti vedere soprattutto su Buzzi, meno sui calcimenti, meno 0,23%. In questo caso comunque c'è anche la spada di Damocle, che appunto gli investitori si interrogano sull'eventuale operazione di fusione con Simon Francais, che per adesso è solo un'ipotesi di borsa, però c'è anche questo punto interrogativo che ha un po' scoraggiato gli ordini in acquisto. Eleonora, ti chiedo qualche istante di pazienza, noi diamo la linea alle informazioni per chi è in viaggio. Focus Economia. Le 17.47, stiamo analizzando insieme alla collega di Radio Cor Eleonora Micheli la giornata a Piazza Affari. Abbiamo visto bene Fondieri Assai, bene Buzzi Unicem. Fiat aveva cominciato bene, poi ha girato al ribasso, chiude in fondo al listino, meno 1,51%. Sì, in questo caso un po' la pressione dei realizzi, del resto le Fiat soprattutto negli ultimi mesi sono tra i titoli che hanno guadagnato più punti. Oggi comunque, proprio anzi poco prima che chiudesse la borsa, è stato raggiunto l'accordo per il contratto di lavoro per lo stabilimento di Pomigliano tra l'azienda e le sigle sindacali. Questa mattina invece i titoli beneficiavano delle notizie provenienti dal Brasile, è stata infatti posata la prima pietra per la costruzione dello stabilimento in Brasile e l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha fissato il target di vendere proprio appunto nel paese brasiliano 1 milione di vetture entro il 2014. Tra i titoli che vanno bene anche Mediaset. Sì, Mediaset oggi ha festeggiato la notizia che la controllata Telecinco ieri ha ultimato l'operazione con la quale ha acquisito 4 e il 22% di Digital Plus da Prisa. E con questa operazione Telecinco, che ricordiamo la controllata di Mediaset, è diventata la prima emittente spagnola. E poi Eleonora, ancora sul listino completo, forse c'è qualche caso da evidenziare? Ma guarda, tra i titoli innanzitutto fuori dal listino principale vale la pena segnalare che non si arresta la corsa delle Cape Listed, che anche oggi hanno messo appunto un progresso del 19%, è già da qualche seduta che tutti i giorni mettono appunto dei guadagni consistenti, diciamo a innescare gli ordini. Si tratta comunque di un titolo scarsamente capitalizzato e quindi facile da muovere. Ad ogni caso, a muovere le azioni è stata la notizia dei giorni scorsi che Atlantis Capital Special Situation, una società che annovera tra i propri azionisti note famiglie dell'imprenditoria italiana, è entrata nel capitale dell'azienda rilevando una quota del 4,5%. E poi sempre tra i titoli diciamo a minore capitalizzazione anche Archimedica, anche oggi ha fatto più 9%, si era mossa molto bene anche nei giorni scorsi festeggiando la notizia di aver ceduto una struttura sanitaria. E allora grazie Eleonora Micheli, collega di Radio Cor, per averci illustrato la giornata a Piazza Affari. A lei come di consueto una buona serata e un buon lavoro. Buonasera a tutti. E noi adesso parliamo di titoli di Stato, partiamo da alcune notizie arrivate oggi, in particolare dall'Italia. Vabbè, il Tesoro ha collocato 8,5 miliardi di BOT a 6 mesi, 3,5 miliardi di CTZ al 2012, ma ha dovuto pagare tassi più alti mentre la domanda rallenta. E poi anche altre notizie, ad esempio la Spagna che ha fatto sapere che il prossimo anno collocherà un quantitativo minore rispetto all'anno appena che si sta per chiudere, indeciso calo, 47,2 miliardi di euro nel 2011, ha programmato emissioni nette di titoli di Stato per questa cifra, l'anno che si sta per chiudere erano pari a 62,1 miliardi di euro. E poi ancora il Portogallo prevede di vendere tra i 18 e i 20 miliardi di euro di titoli di Stato nel corso del 2011. Parliamo di titoli di Stato insieme al collega del Sole 24 Ore Moria Longo, che saluto perché ci ha raggiunto in studio, è sceso qualche scala insomma dal piano di sopra, però comunque è sempre un impegno che noi premiamo. Buonasera a tutti. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2011 i primi 15 paesi del mondo dal punto di vista economico dovranno raccogliere 10.200 miliardi di dollari per rimborsare i titoli di Stato che giungono a scadenza e finanziare nuovi deficit. Non riesco neanche a quantificarmeli, 10.000. Gli americani li chiamano trilioni. Ecco, perché è veramente una cifra enorme. È il 7% in più rispetto al 2010 ed è pari al 27% del PIL dei paesi considerati. Per quanto riguarda noi, italiani, l'Italia dovrà raccogliere circa 425 miliardi di dollari. Questi già riesco a quantificarmeli di più, ma insomma sempre una cifra enorme. È stato un anno piuttosto difficile per i titoli di Stato, molta tensione su tutti i mercati per questioni di debiti, per speculazione, insomma un anno che si chiude, un anno pericoloso. Sì, si è chiuso comunque. Finalmente, possiamo dirlo? Sì, beh, mancano ancora due giorni. Sì, dico finalmente per quanto riguarda, diciamo, riguarda i mercati, se l'anno si è chiuso e alla fine si è chiuso senza... Scusate, senza particolari problemi. Per l'anno prossimo c'è da dire che nonostante le cifre che dicevi tu del Fondo Monetario, che raggruppa un numero di paesi più elevato, in Europa, dove quest'anno c'è stato il vero problema del rischio sovrano, rischio Stato, in Europa ci sarà al contrario un calo delle emissioni rispetto al 2010. Alcune stime danno nel 2011 147 miliardi di emissioni di titoli di Stato in meno, per vari motivi. Da un lato perché non ci saranno né la Grecia né l'Irlanda, che essendo state salvate, speriamo che non ci siano per nuovi ora, casi per ora non sì no eh sì se ci saranno altri casi ci saranno altri salvataggi. Il mercato da tempo che specula e guarda con attenzione, con preoccupazione, il Portogallo. Comunque rimane un paese piccolo, eventualmente salvabile, come è stata salvata l'Irlanda e come è stata salvata la Grecia. Quindi diciamo che quantomeno in Europa l'aspetto positivo è che ci saranno un po' meno emissioni di titoli di Stato, relativamente meno, comunque si parla sempre di tanti miliardi, e quindi un po' meno tensioni, visto che quest'anno proprio ad ogni asta, ad ogni collocamento c'erano le principali tensioni. Per cui questa, diciamo, è un po' la notizia positiva. La notizia negativa, diciamo, in un certo senso, che i problemi e le incongruenze e tutte le varie problematiche che l'Europa ha e che i mercati hanno, diciamo, gli hanno sbattuto in faccia in questi ultimi mesi, rimangono. Perché si è discusso molto del fondo permanente di salvataggio, si parla di un eurobond, cioè di un'emissione di titoli di Stato europeo, cosa che per esempio la Germania non vuole fare, alcuni paesi non vogliono fare. Sì. Ci sono tante discussioni, ma il mercato in questi ultimi mesi ha fatto capire chiaramente all'Europa che il fatto che l'Europa non esista sostanzialmente, ha una moneta unica, ha una banca centrale unica, ma ha politiche fiscali divise, ha politiche divise, ha diversi governi e così via, che parlano lingue diverse, al mercato questo non piace. E questo sta, il mercato ha penalizzato l'Europa per questo motivo, più che per i numeri. Per i volumi, diciamo. Sì, ma anche per i numeri stessi, perché si parla tanto del debito dei paesi europei, ma se si va a vedere il debito degli Stati Uniti è molto peggiore. Cioè gli Stati Uniti dal punto di vista numerico, ammontare di debiti, faccio solo un esempio, in America il debito totale, cioè privato e pubblico, è al 389% del prodotto interno lordo. In Europa al 324%, quindi un po' inferiore. Il deficit è peggiore negli Stati Uniti che in Europa, e se si va a vedere anche negli Stati Uniti i singoli stati, ci sono stati come la California che è peggio dell'Irlanda. Il problema qual è? Il punto qual è? Gli Stati Uniti hanno due punti di forza. Il primo è che il dollaro è una valuta di riserva mondiale, per cui i titoli di Stato americani li compreranno sempre. Tutti, semplicemente per motivi... Continueranno i cinesi a comprare. Ecco, che sono i maggiori acquirenti. Sì, certo. E secondo luogo che gli Stati Uniti parlano una lingua unica, non dal punto di vista del fatto che parlano inglese tutti insieme, ma perché hanno un unico governo, un'unica banca centrale che agisce nell'interesse dello Stato. È quello che manca all'Europa, per cui quest'anno, nel 2011, quest'anno, l'anno prossimo, potremo avere minori emissioni, però se non si fanno passi avanti nell'integrazione europea, i problemi che l'Europa ha avuto nel 2010 ce l'avrà nel 2011, nel 2012, nel 2013. Comunque sempre, fin quando non si risolverà questo che è uno sbaglio. L'Europa è di fronte a un bivio, o si fa un passo in avanti nell'integrazione, e se si facesse l'Europa sarebbe molto meglio, molto più forte degli Stati Uniti. Se non si fa rimane un ibrido, l'Europa, l'Unione Europea è un ibrido, e questo non piace ai mercati, perché non si sa mai che la California venga salvata, si sa. Sì, che beh, certo. L'Irlanda venga salvata si sa il giorno prima del salvataggio, il giorno prima del default. Anche la Grecia sembrava che andasse in default, poi l'hanno salvata. Per cui è questo che preoccupa i mercati, il fatto che non esiste un messaggio unico a livello politico. Dicevamo, finalmente, almeno dal punto di vista di tutto il mercato dei titoli di Stato, questo anno si sta chiudendo. Negli ultimi giorni però la Banca Centrale Europea è dovuta intervenire, almeno ha deciso di intervenire in questo mercato, soprattutto per quanto riguarda titoli del Portogallo e dell'Irlanda. Questo ha fatto pensare che la crisi, tutto sommato, è ancora lì, latente, che anche per questi due paesi, sì, è vero, la questione dell'Irlanda si dovrebbe essere risolta, però questo nuovo intervento... Sì, l'Irlanda ha un problema bancario soprattutto. Siccome le banche sono state salvate dallo Stato, il problema bancario è diventato un problema statale. Però il problema bancario è ancora lì e tanti sostengono che non è stato risolto, che i problemi rimangono. Cioè, quello che è stato fatto è semplicemente togliere all'Irlanda l'imbarazzo, tra virgolette, di dover andare a chiedere soldi sul mercato. Perché è stato creato questo fondo, unito al fondo monetario, e alcuni prestiti che hanno tolto all'Irlanda la necessità di raccogliere soldi sul mercato attraverso i titoli di Stato. Questo è stato risolto, ma tutto il resto no, tutto il resto bisogna farlo, bisogna ridurre il deficit, bisogna migliorare la situazione delle banche, cioè ci sono problemi molto importanti in Europa da risolvere ed è la sfida del 2011, cioè, se non si fanno queste cose allora il salvataggio non serve a niente, perché quando nel 2013 Irlanda e Grecia dovranno tornare a rifinanziarsi sul mercato saremo punto da capo. Maria, l'ultima considerazione da parte tua sulla notizia di oggi del collocamento per quanto riguarda l'Italia. La domanda è leggermente inferiore rispetto all'ultima asta. Sì, però l'asta, allora, il commento generale degli operatori è che fare un'asta, tra l'altro di un importo molto importante, sì, infatti, in un momento come questo, che sostanzialmente è festivo, per cui come tutti, come... anche gli operatori, gli investitori vanno in vacanza. Si prendono una pausa. Ecco, per cui era da tutti considerata un'asta complicata, proprio perché c'è meno, diciamo, tra virgolette, mano d'opera di chi deve comprare i titoli di Stato. Nonostante questo l'asta è andata bene, perché la domanda c'è stata e questo è positivo. D'altro canto, scusate, d'altro canto l'Italia ha dovuto alzare i rendimenti dei BOT e dei CTZ, sì. E questo è un trend che si vede sui BTP, si vede sui titoli di Stato italiani da tempo, e questo è quello che un po' preoccupa, perché l'Italia è assolutamente in grado di emettere titoli di Stato l'anno prossimo, ma se il costo è sempre maggiore a un certo punto, certo, più paghi di interesse meno puoi pagare per scuola, università e tutto il resto. Purtroppo. Grazie a Maria Longo, collega del Sole 24 Ore, per averci aiutato a illustrare un po' quello che sta succedendo sul mercato dei titoli di Stato. Noi ci fermiamo, diamo la linea al GR, ma ci ritroviamo subito dopo. Le 18:08, seconda parte di Focus Economia. Velocissimamente uno sguardo alla chiusura dei mercati. Parigi ha guadagnato lo 0,83%, Francoforte lo 0,34%, Londra ha chiuso con una flessione dello 0,21%, a Milano il FTSE All Share e il FTSE MIB hanno guadagnato poco più dello 0,10%. Per quel che riguarda i listini americani, il Dow Jones guadagna lo 0,26% e il Nasdaq lo 0,07%. Alcune notizie arrivate oggi per quanto riguarda i conti. Occorre rigore, questo è quanto ha scritto il ministro dell'economia Giulio Tremonti in una circolare inviata a tutti i ministeri. Anche in relazione al generale contesto europeo, ha rilevato Tremonti, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica. E ancora l'invito rivolto ai propri colleghi, ridurre gli stanziamenti per le spese non obbligatorie e inderogabili, appunto l'invito che Tremonti ha rivolto a tutti i ministri. Nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, le amministrazioni procedano ad una impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente le possibilità di procedere ad una oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie e inderogabili. E proprio a questo proposito il ministro ricorda tutte le nuove norme alle quali le amministrazioni debbono attenersi per predisporre i bilanci per il prossimo anno, dal taglio della carta al risparmio energetico, dal contenimento delle auto blu alla diminuzione dei convegni. stretta quindi per i ministeri, in difficoltà anche le famiglie italiane. Questa ovviamente non è una novità, cresce nel 2009 insieme all'indebitamento la difficoltà delle famiglie di far fronte agli imprevisti. Questo è quanto ha rilevato l'Istat nel rapporto distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia relativo agli anni 2008-2009, precisando che le famiglie che non potrebbero far fronte a spese impreviste di 750 euro aumentano dal 32 al 33,3% rispetto al 2008. Cresce inoltre il numero di famiglie che sono in arretrato con debiti diversi dal mutuo e quelle che si sono indebitate. Per quanto riguarda i mutui, le famiglie italiane che hanno un mutuo in corso sono solide di fronte alla crisi e mantengono un basso livello di rischio default. Questo è quanto afferma il rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane dell'ABI e del Ministero del Lavoro, da cui emerge che, stando agli ultimi dati disponibili relativi al giugno scorso, la rata che la famiglia media deve pagare per comprare la propria casa nel caso di mutuo fisso è pari al 24,5% del proprio reddito. Nella prima parte di Focus Economia abbiamo dato molto spazio al nuovo contratto firmato per Pomigliano. Tutti i lavoratori, 4.600 lavoratori, verranno riassunti da questa new co. Ricordiamo però che c'è tanta cassa integrazione non solo negli stabilimenti Fiat in Italia, ma anche in molte altre aziende italiane. Dall'Emilia arriva un'idea che cerca di dare alcune risposte alla crisi su due fronti: il sostegno al reddito dei tanti cassaintegrati, più di 70.000 nella sola provincia bolognese, e la tenuta dei conti delle aziende di trasporto locali. In pratica, la CISL di Bologna propone di utilizzare i lavoratori in cassa integrazione come controllori sugli autobus, grazie al meccanismo dei voucher previsto dal decreto mille proroghe, evitando così di alzare il prezzo del biglietto. Paolo Piacenza ne ha parlato con Fabrizio Ungarelli, responsabile politiche del lavoro della CISL di Bologna. Noi abbiamo unito al prolungarsi della crisi e quindi la diminuzione progressiva delle indennità dell'INPS per i cassaintegrati alla possibilità, tramite l'introduzione del decreto mille proroghe anche per il 2011, per i cassaintegrati di poter associare lavoro accessorio, quindi un lavoro occasionale fino a 3.000 euro netti all'anno, la possibilità appunto per l'azienda dei trasporti di assumere dalle liste dei disoccupati, dei cassaintegrati, persone che possono fare i verificatori sugli autobus del possesso dei biglietti da parte degli utenti degli autobus stessi. E questo, secondo noi, potrebbe intervenire in questa fase straordinaria sia per migliorare la capacità economica dei cassaintegrati, ma anche per diminuire progressivamente appunto questa evasione che c'è sulle tariffe, che a livello nazionale è stimata in circa il 20%. In termini di efficienza, è meglio fare questo tipo di scelta rispetto all'aumento del biglietto? Noi siamo stati critici sugli aumenti dei biglietti perché erano dovuti essenzialmente a una riduzione dei trasferimenti statali che poi progressivamente ritornata nel 2011 equiparabile a quella del 2010, quindi al di là del fatto che il nostro biglietto dell'autobus è stabile da qualche anno, insomma, a nostro avviso non ci sarebbero grandi ragioni per l'aumento. In realtà è notorio che l'aumento del costo del biglietto produce appunto due effetti: uno è la riduzione degli utenti e l'altro è l'aumento dei cosiddetti portoghesi, cioè di quelli che salgono sull'autobus senza pagare il biglietto o avere abbonamento. E avete avuto delle risposte positive già o ve ne attendete? Qual è la reazione anche del mondo sindacale del settore trasporto? Il mondo del trasporto si divide in due parti, insomma, quelli che pensano al bel mondo antico in cui sugli autobus viaggiavano l'autista e contemporaneamente anche il bigliettaio, che è un sistema che a nostro avviso sarà difficilmente riproducibile nel futuro, nel senso che è un costo che probabilmente non si può più permettere, soprattutto per un servizio, quello del trasporto pubblico locale, che è ripagato solo per un terzo circa dal pagamento degli utenti e per due terzi è sovvenzionato ancora da trasferimenti statali e regionali, per cui è una forma di servizio largamente sovvenzionato dalle casse pubbliche. E a nostro avviso la nostra proposta ha il vantaggio di, con un costo limitato per le aziende del trasporto, di poter appunto intensificare un controllo che, se lasciato a se stesso, in realtà quindi ai dipendenti dell'azienda, di non produrre grande effetto di deterrenza nei confronti dell'utenza, soprattutto in concomitanza con progressivi aumenti del costo del biglietto, che è notorio, aumentano evidentemente anche l'evasione tariffaria. È un modello esportabile, cioè un'idea esportabile questa che state proponendo, perché potrebbe riguardare anche altre realtà italiane ovviamente? A nostro avviso sì, cioè la situazione di crisi e quindi di progressiva perdita di reddito da parte dei lavoratori dipendenti attraverso la cassa integrazione è un effetto che si riproduce su tutto il paese. L'opportunità di introdurre questa modalità sperimentale, temporanea, col lavoro accessorio, secondo noi è riproducibile anche altrove, anche perché appunto il dato del 20% di evasione sul pagamento dei biglietti non è un dato bolognese, ma è un dato a livello nazionale. Abbiamo sentito quindi che cosa si stanno inventando a Bologna per cercare appunto di aiutare chi è in cassa integrazione ma anche l'azienda di trasporto locale. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante, la linea, le informazioni per chi è in viaggio, ma torniamo tra pochissimo. Focus Economia. Le 18 e 17 minuti, ultima parte di Focus Economia. Di che cosa parliamo? Parliamo di questa stima sugli aumenti di tariffe e prezzi nel 2011 fatta da alcune associazioni di consumatori, in particolare calcoli di Adusbef e Federconsumatori, una stangata da oltre 1000 euro per famiglia all'anno. Insomma, non è cosa da poco. Ne parliamo con il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti, che però ci stiamo collegando con lui telefonicamente. E allora, prima di salutarlo, possiamo riassumere gli aumenti e in particolare una specifica categoria di aumenti che immagino non farà piacere a nessuno nella nostra scheda. Anno nuovo, aumenti nuovi. Il 2011 comincia male per le nostre tasche. Salvo improbabili sorprese dell'ultimo minuto, con il 1 gennaio scatteranno infatti gli aumenti dei pedaggi autostradali. In media un rincaro del 6%, ma con differenze notevoli sulle diverse tratte gestite da differenti concessionari. Il record spetta alla Torino-Milano, autostrada gestita dal gruppo Gavio, che bastonerà gli automobilisti con un aumento di ben il 20%. Chi percorrerà la Venezia-Trieste dovrà pagare l'11% in più, mentre il rincaro sulla Brescia-Padova sarà del 10%. Decisamente più modesti gli aumenti previsti sulla rete di autostrade per l'Italia, principale concessionario italiano, con 17 tratte tra cui la Milano-Napoli, che alzerà le tariffe dell'1,9%, poco al di sopra del tasso di inflazione. È bene ricordare che, come denunciato ieri da uno studio della CGIA di Mestre, i pedaggi autostradali sono la voce che tra il 2008 e il 2010 ha registrato i rincari più forti e pari quasi all'11%, ossia oltre 4 volte l'inflazione del periodo. L'anno alle porte si annuncia in generale problematico per i trasporti. Gli automobilisti dovranno anche sopportare un incremento medio del 12% delle polizze assicurative. A loro volta i mezzi pubblici costeranno fino al 30% in più e incrementi significativi sono previsti anche per i treni, in special modo per le tariffe dei pendolari, con un aggravio sul bilancio quantificabile in 122 euro all'anno. Secondo le associazioni dei consumatori, il 2011 porterà anche aumenti delle tariffe di gas più 8%, elettricità più 5%, acqua più 6% e rifiuti più 8%. E sono attesi rincari anche per la spesa alimentare. Il conto finale sarà di 1.016 euro di spese aggiuntive per ogni famiglia. E allora benvenuto, buon pomeriggio a Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, presidente, dalla nostra scheda una lista piuttosto lunga di rincari. Noi abbiamo cominciato con i pedaggi autostradali, ma abbiamo parlato anche delle tariffe dei treni per i pendolari. Insomma, meglio stare a casa il prossimo anno. Beh, è meglio stare a casa, ahimè, dobbiamo invece muoverci e muoverci in fretta, dobbiamo lavorare, vogliamo lavorare, aumentare la capacità di proposta di lavoro nel nostro paese, altrimenti i giovani cosa fanno? Già il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge in certi luoghi del nostro paese il 25%. No, bisogna muoversi, bisogna che si faccia di tutto perché ci sia una sorta di intervento anche shock sull'economia, bisogna rilanciare. Allora, Presidente, dalla tabella che voi avete messo a punto possiamo fare alcuni casi. Per quanto riguarda l'alimentazione, in questi 1.016 euro in più per famiglia pesa per 267 euro. Treni, anche voi avete analizzato la situazione, 122 euro in più. Il trasporto pubblico locale 41 euro in più, servizi bancari 65 euro in più, anche se speriamo che dal prossimo anno ci sia qualche novità effettiva, ad esempio sul rosso, sullo scoperto, carburanti 131 euro in più e poi ancora le tariffe autostradali, anche voi ne avete parlato, tariffe del gas. Ma come siete arrivati a questi calcoli, perché poi sono abbastanza precisi? Sì, è presto detto, poi guardi, abbiamo il piacere di vederceli anche copiati anche da istituti importanti che naturalmente non citerò, generalmente queste cose avvengono dopo 7-8 mesi che noi li denunciamo, ma faccio un esempio per capirci. Per esempio l'RC Auto, guardi, anche qui noi abbiamo commesso un piccolo errore l'anno scorso, noi davamo un 15-16% in aumento, l'ISVAP, che è l'istituto di controllo, qualche mese dopo, in questo caso lo posso dire perché è un istituto pubblico, ha dato il 17%, quindi noi generalmente abbiamo queste notizie perché abbiamo anche, e si può dire tranquillamente, anche delle informazioni che provengono all'interno delle stesse aziende o delle agenzie che devono assicurare, oltre naturalmente ad avere i nostri osservatori e le nostre sezioni sul territorio che ricevono le denunce dei cittadini che hanno questi aumenti sulle tariffe RC Auto. Quindi sapendo che deve aumentare di circa stanno aumentando di circa l'11%, 12%, siccome la tariffa media RC Auto è arrivata quasi a 1.000 euro dopo l'aumento del 2010, che è stato notevolissimo, appunto del 17-18%, ecco che presto fatto il calcolo l'aumento sarà di, abbiamo messo 105-110 euro, insomma 105 euro. Sì. Come vede, noi calcoliamo così le previsioni, oppure è presto detto anche sull'alimentazione, abbiamo notizie da parte delle imprese e non solo, di alcune catene importanti di intermediazione che dicono che i listini aumenteranno di circa il 5-6%. E allora, prendendo il dato Istat per cui la spesa alimentare delle famiglie è di circa 5.000 euro, per la precisione 4.900, basta moltiplicare per 5-6% ed ecco che viene fuori il dato 267 euro. E così potrei continuare, certo, per tutte le voci. Senta, Presidente. Sì. Naturalmente scherzo e faccio una battuta, mi avete copiato il dato di il giornale, per la verità, sì, 24 ore, ha copiato il dato di autostrade che noi abbiamo dato. Sto scherzando naturalmente, anche voi siete in possesso di dati precisi. Senta, Presidente, visto che lei ha fatto il caso dell'RC Auto, allora io le riporto quanto hanno battuto oggi le agenzie. L'ISVAP ha presentato con una lettera a Governo e Parlamento un pacchetto di interventi normativi nel settore dell'RC Auto volti a ridurre le tariffe. In questo caso la riduzione si aggirerebbe intorno al 15-18%, insomma un contenimento dei costi in questa misura prudenziale del 15-18%. Che ne dice? Guardi, sulle questioni dell'RC Auto ne abbiamo discusso tantissime volte e abbiamo fatto tante proposte e per la verità poi queste proposte non vengono realizzate, non si realizzano. La stessa questione delle truffe, abbiamo detto, guardate, per ridurre le truffe, quindi anche ridurre le esposizioni e quindi abbattere anche le tariffe, bisognerebbe fare in un certo modo, incrociare i dati, fare uno sportello serio, informativo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi queste cose non si fanno, si va invece sul tranquillo tranquillo, aumentano gli incidenti, aumentano magari le truffe, aumentiamo le tariffe. Cioè, vede, in questo paese, ne cito un'altra di questione, come per esempio quella della benzina, ogni giorno facciamo la polemica sulla benzina, tutti in Italia la fanno per la verità, ecco, anche qui conveniamo con il Ministero dello Sviluppo Economico di fare alcune norme, alcuni, la messa in campo di alcuni strumenti per abbattere le tariffe, facilissimi da individuare, sono la commissione istituzionale sulla doppia velocità dell'adeguamento dei prezzi, sono il blocco settimanale non in ascesa, naturalmente libero in discesa, blocco dei prezzi per poter dare la possibilità ai cittadini di fare una comparazione migliore tra pompa di benzina e pompa di benzina. Oppure, terza cosa molto importante, fare come in Francia e in Germania, aprire la grande distribuzione per poter avere distributori più efficienti, perché non vendono solo benzina ma vendono anche altri prodotti. Ebbene, facciamo questi accordi, facciamo queste normative, tutta la filiera è d'accordo, compresi i petrolieri che accusiamo tutti i giorni, e poi non si fa nulla, nessuna norma viene tradotta in legge o in regolamento o in niente, non si fa assolutamente nulla. Senta, è un Presidente, paese in cui si blattera troppo e si fa poco. Senta Presidente, in una battuta velocissima, quanto di questi rincari è colpa della crisi e quanto di chi specula sulla crisi? Guardi, ce ne sono tante di motivazioni, non ultimo anche alcune oggettive di tensioni a livello internazionale sui prezzi delle materie prime. Naturalmente il petrolio lo sappiamo, in più quelle agroalimentari, ci sono delle tensioni, naturalmente anche legate a speculazioni, ma questo noi diciamo intervenite a livello internazionale, ci sono delle istituzioni e degli organismi che dovrebbero farlo. Ma poi non c'è solo questa motivazione, ci sono anche delle riforme non fatte. E ne abbiamo citate uno o due che le abbiamo sull'RC Auto, sulla filiera petrolifera, ma non ci sono riforme per dare la maggiore competitività del sistema, cosa che noi vogliamo fare. E poi, diciamola tutta, il taglio agli enti locali sta provocando un disastro nei bilanci appunto dei comuni, delle regioni, per cui questi si rifanno con le tariffe laddove hanno le aziende municipalizzate e via dicendo. Certo, Presidente, la devo fermare, la devo interrompere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Rosario Trefiletti, Presidente di Federconsumatori. E invece ci ha raggiunto in studio il collega Maurizi. Alessio, dici qualcosa al volo, anche perché ci sono gli ascoltatori già pronti per la zanzara. Benissimo, allora glielo dico subito, ti ruberemo un po' il mestiere, perché parleremo delle conseguenze di questo accordo su Pomigliano, l'intesa di Mirafiori, che anche dal punto di vista politico come prima conseguenza hanno avuto quella di spaccare il Partito Democratico per a sinistra, volta. Fosse stato bisogno, tra chi come Cofferati dice è un disastro questo accordo e chi invece come Fassino torinese dice no, era un'opportunità da accogliere. 800 24 0024, faremo anche un esperimento alla radio, perché ospiteremo la redazione di un programma che va in onda su Punto Radio in Toscana, la redazione del programma che si chiama Collega Menti ed è fatto da un gruppo di operatori utenti del Dipartimento di Salute Mentale, e vedremo cosa ci hanno da raccontare. Grazie ad Alessio Maurizi, tra pochissimo con la Zanzara. Io ringrazio in regia Filippo Oreggi, in redazione Mauro Del Corno. L'appuntamento con Focus è per domani. Radio 24. La passione si sente.